Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno e buona domenica. Industry 4.0, ormai è diventato una sorta di mantra che si ripete di continuo, ma sembra che poi sia una cosa tecnica, una cosa per addetti ai lavori. In realtà è una cosa che riguarda tutti noi e, detta in modo molto semplice, vuol dire un nuovo modo di produrre molto flessibile e ritagliato sulle esigenze del cliente. Oltretutto un nuovo modo di produrre dove quello che conta l'intelligenza del progetto, dove si possono fare progetti anche con pochi dipendenti e grazie all'informatica, grazie all'IT, grazie a una serie di enabler tecnologici iniziare a competere e iniziare a insidiare anche le posizioni già acquisite da leader di mercato. Quindi un nuovo modo di produrre più flessibile, ritagliato sulle esigenze del cliente, che alle aziende italiane potrebbe portare grandi vantaggi, perché noi siamo un tessuto industriale che per inventiva, creatività e affidabilità non ha uguali al mondo, e questo non vale solo per la moda, ma vale anche per la meccanica, che è l'asse portante della nostra economia. Dunque, Industry 4.0 dà a chi ha progetti intelligenti più capacità competitive. Il progetto è quello che conta e l'enabler di tutto questo è l'informatica. Ne parliamo oggi con Roberto Zuffada, che è responsabile Digital Enterprise di Siemens Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi accompagnate le aziende, in particolare le medie aziende italiane produttive, verso la competizione, dando loro degli strumenti di organizzazione aziendale, di informatica, di automazione e dei software. Lei è d'accordo sull'affermazione che ho fatto io prima? Sì, assolutamente sì. La flessibilità e il miglioramento della qualità sono gli obiettivi classici dell'Industria 4.0, che si realizzano attraverso l'introduzione di tecnologie che però devono essere assorbite, diciamo così, dal processo manifatturiero aziendale, che si deve evolvere in qualche modo anche attraverso questi nuovi sistemi che acquisisce. Ecco, la questione è che Industry 4.0 vuol dire in pratica mettere dei sensori dappertutto, raccogliere dei dati, monitorarli e giungere a delle conclusioni strategiche. Da farsi è molto più complicato che da dirsi, perché dirla così sono buoni tutti: io metto il sensore, raccolgo i big data e poi li uso. Dopodiché farlo è una bella impresa. Sì, farlo è una bella impresa, nel senso che anche la quantità di dati da gestire, che già adesso la quantità di dati da gestire all'interno del manufacturing, degli impianti produttivi è abbastanza elevata, ma aumenterà notevolmente con l'abbassamento enorme dei costi dei sensori, piuttosto che non degli attrezzi che servono per estrarre informazioni. Queste informazioni comunque sono molto variegati e sono in numerosità molto elevata, devono essere poi concentrati e analizzati in maniera opportuna. Tipicamente questa cosa l'Industria 4.0 considera di farla fare in cloud, cioè spostare una massa di dati significativi da una zona, diciamo così, residente all'interno dell'azienda in una zona invece che viene gestita dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della manutenzione, dal punto di vista dei costi delle macchine, viene gestita da terze parti. All'interno di questa zona in cui i dati vengono archiviati e vengono analizzati, è possibile fare tutta una serie di attività di incrocio di dati, di definizioni in termini per il forecasting, piuttosto che non dati che servono per correggere la progettazione. È fondamentale il ciclo completo che va dalla definizione del prodotto fino al manufacturing. Il manufacturing restituisce le informazioni reali che servono per il ciclo successivo di progettazione e di modifica del processo a migliorare la qualità del prodotto. Ecco, ci dobbiamo interrompere un attimo, restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi parliamo con Roberto Zuffada di Siemens, lui è responsabile Digital Enterprise, del Industry 4.0, di come devono fare praticamente le aziende a evolvere verso questa quarta rivoluzione industriale. Quarta rivoluzione industriale che è annunciata, ma che, va detto, ancora non c'è. Tutti sanno che ci sarà, tutti sanno che andiamo verso di lì e tutti stanno predisponendo le loro aziende e le loro vite per andare verso questo obiettivo. Ma la quarta rivoluzione industriale non c'è ed è la prima volta che succede una cosa di questo genere, perché le rivoluzioni industriali vengono raccontate ex post. Quando uno ha nel 700, all'inizio dell'800, al posto del motore dei sistemi dei telai meccanici, metteva dei telai che erano azionati da sistemi a vapore, mica diceva adesso sto facendo la prima rivoluzione industriale, no, diceva sto facendo un'automazione, così avrò un telaio più efficace, più efficiente e potrò guadagnare di più, anche se, accidenti, devo spendere un po' di più per comprarlo. Centinaia d'anni dopo hanno battezzato questa cosa prima rivoluzione industriale. Invece adesso abbiamo la quarta rivoluzione industriale che è stata annunciata, è stata creata, è stata definita, ma che ancora non c'è e nemmeno si vedono i suoi riflessi sulla produttività. È una sorta di paradosso. Tra l'altro, la quarta rivoluzione industriale o Industry 4.0 è stata nominata così a un tavolo del governo tedesco per definire la politica industriale tedesca nel 2011. Era un tavolo fatto dal governo al quale partecipavano l'università e le imprese e protagonisti, tra i protagonisti di questo tavolo c'erano Siemens e Bosch. Dunque, ve la siete inventata voi per vendere la quarta rivoluzione industriale? No, non ce la siamo inventata noi per vendere, diciamo che è l'evoluzione naturale e la messa a fattor comune di tutta una serie di tecnologie orientate soprattutto verso il manufacturing. Diciamo, questa è la caratterizzazione, l'aspetto caratteristico dell'industria 4.0. Poi si doveva andare di lì, si doveva andare per forza lì, perché dopo l'interconnessione di tutti gli esseri umani, siccome il mondo è sempre andato verso l'interconnessione e l'abolizione delle barriere, era ovvio che si andasse verso l'interconnessione e la comunicazione degli oggetti. Sì, che adesso è assolutamente reso possibile, sia dei costi ormai accessibili a tutti, sia in termini anche di meccanismi. Però l'introduzione, diciamo, della connessione estesa tra uomini con macchine con macchine e macchine con organizzazioni è la caratteristica di questa industria 4.0, che, ripeto, è resa possibile dall'aspetto tecnologico di abbassamento dei costi, delle grandi performance delle devices che sono fornite o accedibili, che possono essere utilizzati anche adesso e meglio ancora lo saranno nel futuro dal punto di vista delle performance. Ecco, a proposito dei devices, quello che conta molto è l'IT, tant'è che si dice che la fabbrica del futuro, forse già la fabbrica di oggi, deve essere una software house. Voi di Siemens siete diventati dei provider di IT. Sì. E addirittura quasi dei softwareisti. In particolar modo c'è questo software che voi proponete alle aziende per andare verso l'Industry 4.0 che si chiama MindSphere. Che cos'è? Allora, noi siamo softwareisti da tempo, nel senso che c'è tutto un settore significativo aziendale che si occupa di Digital Enterprise Software e offre una piattaforma che si chiama Digital Enterprise Software Suite, che va dalla definizione prodotto dei sistemi CAD, dei sistemi Manufacturing Engineering, dei sistemi MES, fino ad arrivare fino allo stabilimento. C'è proprio un filo complessivo. MindSphere è la parte che ci consente di considerare l'IoT una piattaforma dedicata all'IoT del manufacturing e di cloud. Quindi di raccogliere i dati mandati dagli oggetti che sono in movimento. Immaginate la fabbrica come un insieme di macchine che producono e di pezzi che vengono prodotti. Su tutto questo viene montato un sensore che poi manda delle informazioni, ma queste informazioni devono essere raccolte, filtrate, analizzate. Lo fa MindSphere, giusto? Lo fa MindSphere e l'accessibilità verso MindSphere da parte dei supplier, piuttosto che di quelli che fanno manutenzione, predictive maintenance e quant'altro, è fondamentale per conservare e mantenere, diciamo così, in buona salute lo stabilimento. Quindi è un sistema che permette di trasformare i dati grezzi raccolti in azienda in preziose informazioni a supporto dei processi decisionali dell'azienda, giusto così? Dei processi decisionali dell'azienda e anche della gestione dei by day dell'azienda, non solo i processi decisionali. Quindi a diversi livelli i dati possono essere utilizzati sia per definire meglio i processi decisionali, sia per gestire la quotidianità della gestione delle macchine. Quindi si tratta di fare comunicare, anzi di interconnettere, anzi di trasformare in una cosa sola il mondo della produzione con il mondo dell'IT aziendale. Assolutamente, assolutamente. Difatti l'IT aziendale che tipicamente si ha la performance migliori all'interno degli uffici, diciamo così, gli office normali, a questo punto deve farsi carico in maniera significativa del manufacturing, quindi delle macchine, del network di officina, perché questi dati devono essere messi a fattor comune, quindi l'ambiente deve diventare sempre di più un ambiente unico. Ecco, pertanto, per dirla in termini tecnici, le reti OT, che sono quelle della produzione, sì, devono essere in grado di comunicare in modo diretto con le reti IT per garantire un accesso all'informazione immediato che va dal gestionale fino al cloud, giusto? Messa così? È assolutamente così, quindi gli standard di sicurezza piuttosto che non le procedure devono essere omogenizzati compatibilmente con il fatto che trattiamo due ambienti diversi. Arriva a gestire tutta l'azienda con MindSphere? Con un'unica piattaforma in qualche maniera. Ma è cloud nel senso che è tutto remoto o è dentro l'azienda? Com'è la cosa? Allora, il cloud, noi stiamo parlando di un public cloud, quindi noi ci appoggiamo su delle piattaforme cloud di commerciali che ci consentono di gestire la specificità del manufacturing. In questo momento stiamo parlando di dati in cloud e di gestione dell'analisi in cloud. La fase successiva sarà quella di avere degli applicativi significativi, non solo delle app, degli applicativi significativi di manufacturing anche in cloud. Ecco, ma per agganciarsi a quello che ho detto io all'inizio, che nell'Industry 4.0 quello che conta è l'intelligenza del progetto, avere un'idea nuova e che funzioni, poi alcuni aspetti legati alle dimensioni, alla massa critica e al farsi dell'idea possono essere un po' più semplici. Dunque, io che ho una media impresa, posso dire do a Siemens chiave in mano la gestione di tutto questo, loro lo fanno con MindSphere e io mi devo preoccupare solo del mio business? Posso dirla così? Direi proprio di sì, dove per occuparsi dell'aspetto ICT, del manifatturiero, significa occuparsi sia della parte software che della parte di cloud, quindi la capacità di gestire i dati in remoto, e anche di occuparsi fisicamente delle reti, perché un altro aspetto che va preso in considerazione è che le reti di officina non possono essere le stesse reti dei sistemi IT di Office, devono essere in qualche maniera commisurati alle performance, alle 24 ore di lavoro, al fatto che non possono essere fermate le macchine, che sono una cosa affatto diversa dall'Office, e quindi devono essere tenute in considerazione. Quindi anche le reti devono essere, ci va grande attenzione, e devono essere commisurate. Ecco, la fabbrica interconnessa vuol dire che la fabbrica, e in generale poi tutta l'azienda, visto che non ci sarà neanche poi una distinzione così netta fra l'azienda e la fabbrica, ecco, vuol dire che la fabbrica produce milioni di dati, vuol dire anche che c'è un rischio altissimo, il rischio della cyber security, ed è un rischio che molte aziende, finché non ci sbattono il naso, sottovalutano, perché può entrare un hacker, può entrare un pirata, e questo ti blocca l'azienda per 2, 3, 4 settimane e ti può fare dei danni fino a farti chiudere. Ed è un fenomeno che si va diffondendo sempre di più, anche perché c'è un forte guadagno di questa gente. Magari sono pirati che si trovano in Nigeria e in altri paesi e ti chiedono il riscatto, e tu ti trovi nella posizione di essere bloccato e di non sapere se pagare o no, non sapere cosa fare. Questo vuol dire che un po' anche tutti si stanno buttando nella cyber security, e anche un'azienda come Siemens ha i propri clienti che sono le aziende manifatturiere, propone delle soluzioni, mi risulta, no? Noi proponiamo delle soluzioni, diciamo, a due livelli: un livello hardware specifico e una caratteristica specifica del network adatto alla visione del mondo e alle performance dell'officina, e anche una parte software di sicurezza. Volevo distinguere però tra due cose, quello che hai detto è verissimo, però volevo fare una distinzione tra la sicurezza dei dati, quindi i dati che sono in cloud sono sicuri per definizione, perché ho un contratto con il provider, nella fattispecie Siemens, con il Mindsphere, che garantisce lui la sicurezza. Mentre i dati invece che sono ancora nell'officina, che sono collegati con l'esterno... Certo, perché le macchine non possono avere un antivirus a bordo. Non possono avere. Una delle difficoltà è che tu non puoi su ogni singola macchina montare un antivirus. Oppure lo puoi fare con grande cautela e dipende dalla macchina. Diciamo che è la caratteristica complessiva della rete che deve rendere sicuro l'officina, non tanto la singola macchina in sé. Bene, dobbiamo chiudere. Ringraziamo Roberto Zuffada. Grazie a voi. E mi raccomando, sabato prossimo ore 14, Fabbrica 2.4. Se invece volete risentirci, fra pochi minuti c'è il podcast della trasmissione sul sito di Radio 24, quindi se non sapete cosa fare oggi pomeriggio potete sentirvela a loop. Buona domenica.